Cari amici di Radio Big World, un saluto da Pietro Pancamo. Stasera voglio recensire per voi un libro di liriche che ho molto apprezzato e che è stato scritto dalla poetessa di Avellino, Monia Gaita. Nel 2008 Monia Gaita ha pubblicato con la Guida Editori di Napoli la raccolta di liriche Falso Magro. In essa è protagonista, tanto nobile quanto indiscussa, una poesia armoniosa che procede elegante e inquieta, lasciandosi guidare da uno stile trasognato che, pur nell'asciuttezza pervasiva che domina sintetica e palese lo spazio raccolto d'ogni verso, si rivela a ben guardare non solo carico e lustreggiante di metafore, ma anche ricco oltre misura di invenzioni linguistiche in cui la parola, gioco afflitto e malinconico, innescato da un sincero, se non istintivo, moto di ricerca, sa ritrarre con l'incantevole maestria di virtuosismi lessicali e termini forbiti o desueti, l'intima affezione che mina la realtà, avvelenandone di norma e drasticamente il codice genetico. Ed ecco allora che il lettore inevitabilmente si trova proiettato nella Nella scoliosi scoliosi strutturale strutturale delle cose. delle cose, mentre i desideri, cattivi consiglieri che, confusi dai rebus del buio, spingono nel baratro, si configurano come la rovina di qualsiasi speranza. Ed ecco un breve componimento in versi di Monia Gaita, tratto ovviamente dalla raccolta Falso Magro. Cammina come un vecchio, la speranza, senza più sangue nelle vene, con coda di balena, l'illusione. Bene, proseguiamo con un altro autore, il poeta Armando Romano, di cui recensirò fra poco una breve raccolta inedita. Chiunque ristagni anima e bagagli, ovviamente mai fatti, nel brutto vizio di non muoversi nemmeno d'un passo dalla propria vita, non può che avere pensieri statici, inevitabilmente dediti ad una paralisi plenaria e preconcetta. Invece, Armando Romano, uomo caratterizzato di sicuro da un'esistenza tutt'altro che in colore o in dolore, è votata anzi a viaggi instancabili attraverso i più vari panorami geografico-mentali, preferisce il moto fantasioso e perpetuo della curiosità, bravissima in ogni occasione a rivelarsi per ciò che è realmente, ovvero un casto desiderio di libertà, una libertà di sogno e parola con cui Armando Romano descrive nel giro di un'intera silloge intitolata Sinfonia del Mare le forti impressioni di una vacanza radiosa, passata a riflettere sulle circostanze che allietano o deludono, in genere, i nostri giorni, quelli cioè di una vita ricorrente in cui l'anima, per quanto tenda spesso a perdersi nella complessa vastità degli ostacoli da affrontare, trova ugualmente qua e là l'appiglio di uno sguardo socievole e fascinoso o di una preghiera ben assestata al Creatore. E se capita di quando in quando che i versi di Armando Romano risultino afflitti da una certa banalità, compaiono però a tratti alcune immagini capaci di riscattarli in bellezza, presentandoci un poeta che, dalle minuzie della quotidianità, sa trarre indubbiamente, per mezzo di finali ad effetto che ricordano talora Ungaretti o Quasimodo, una speranza amichevole da offrire a tutti con un sorriso simpatico e alla mano. Bene, dalla silloge Sinfonia del Mare leggerò adesso una brevissima poesia intitolata Due Tempi. Ieri tanta gioia, di sole e di mare. Oggi con il maltempo, tristezza, tristezza anche dei fiori. con lo svanire di nuvole e nebbie, il mare riapre gli occhi, come fa l'anima. Ed ecco adesso altre due poesie brevissime di Armando Romano. La prima si intitola Forse un abbandono, la seconda invece Complimento a una donna. Natura, natura maestosa intorno, cielo, mare e giardini nel verde. Quest'angolo da riposo, ma al benessere manca qualcosa. Forse un abbandono a te, Signore. Lava tutti i peccati del mondo, l'imbarazzo e il rossore di una donna pura. Tutti i peccati del mondo, l'imbarazzo e il rossore di una donna pura. Tutti i peccati del mondo. L'imbarazzo e il rossore di una donna pura. Allora, per oggi è tutto, cari amici. A risentirci alla prossima puntata con un nuovo autore e nuove letture.